in questi ultimi minuti si sta diffondendo la notizia che in realtà sia stato tutto uno scherzo telefonico organizzato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara. Ora staremo a vedere se così sarà. Perché? Perché in questo caso non si sa se Renzi o Bersani, in ogni caso il Partito Democratico sarebbe vittima di uno scherzo piuttosto crudele. Per ora è tutto, a voi. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. E intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione col campo, appena abbiamo avuto la notizia di questo, che io ho definito un golpe, ma un golpe, un colpettino istituzionale furbo, perché abbiamo questa furbizia giocata sulle parole, sulla semantica. Le cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura e giù libri legati. Grillo è passato in pochi secondi dal golpe al golpettino istituzionale. In realtà poi faremo anche delle critiche, per carità. Però qui oggi non a Grillo, ma a Grillo è scontato il golpe. Ma di che parliamo? Il golpe, dai, su ragazzi, il golpe. 75% del Parlamento ha votato un signore di 80 anni, gli 88, quelli che ne ha. E allora, perché l'altro quanti ne aveva di anni? 80. Carina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Le critiche perché i partiti si sono inginocchiati di fronte a un signore anziano. I partiti incapaci, totalmente incapaci, si sono dovuti inginocchiare, appecoronarsi di fronte a un signore anziano. Con l'età e da migliaia d'anni non cambia la storia. Giulio Cesare. Però qui abbiamo un gigante perché uno lo può criticare. E noi ci riserviamo il diritto di critica, un gigante dei nani. E il comico. Il gigante, perché oggi ha dato degli scappellotti forti. Gigante, anzi, è napoletano, ovviamente. Beh, ovviamente, degli scappellotti ai politici, e quelli applaudivano, masochisti applaudivano, facevano clap, clap, clap, applaudivano. L'altra sera. Sentiamo. Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. Non dico solo. Non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Cioè, quello dice che bisogna fare le riforme, poi bisogna vedere quali, perché questa parola viene sempre evocata così, le riforme, bisogna vedere quali, perché non è che tutti sono d'accordo. Quelli, loro lo applaudono, gli stessi che non le fanno le riforme, gli stessi che non hanno voluto cambiare una virgola il finanziamento pubblico dei partiti, la cancellazione del Senato, i rimborsi elettorali, tutto, non hanno voluto fare nulla e applaudivano Napolitano che gli diceva che non avete fatto niente, ridicoli! Le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione. Ancora un po' del gigante. Dai, la conclusione del gigante, dai. Mi fermo qui perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. E intanto farà il colpo del caffè. Poi bastonate a Bersani perché dice che con quella maggioranza che aveva non è riuscito a gestire il super premio di maggioranza. La conclusione vera, però, voglio la conclusione vera, quando dice viva la Repubblica, viva il Presidente, no, viva il Parlamento, quello che è. E lo farò fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno. Inizia oggi per me questo non previsto ulteriore impegno pubblico in una fase di vita già molto avanzata. Inizia per voi un lungo cammino da percorrere con passione, con rigore, con umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento e il mio augurio. E lui non c'è chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Intanto nel Partito Democratico, caro Parenzo, si scannano, si scannano. Ma dove sei? Sono in redazione, da un telefono fisso, ecco perché si sente così bene. Bah, bene, insomma, intanto si sente una voce mogia mogia, una voce da cane bastonato. Che è successo? Ti è andato di traverso qualcosa? Ti è andato di traverso un prodino per caso nel weekend? Un prodino ti è andato di traverso? Poco da dire, no, mi è andato per traverso una cosa molto grave di cui parleremo, ma abbiamo tempo. Pronto? Fino alle 22:50. Pronto? Senatore Mastrangeli? Sì. Sì, la Zanzara, buonasera, come sta? Cruciani, mi hai anticipato, Che è successo? Che è successo? Come ti ho anticipato? No, va bene, niente, stavo aspettando un'altra chiamata. Comunque, volentieri ti... No, non c'è problema. No, perché lei era ospite, senta, di nuovo. Tra poco, lo sapete, ci sarà un grande processo, un processo... lo sappiamo, che, sì. Saluta Parenzo, innanzitutto. Senatore, saluti Parenzo, con chi è stato ospite alla 7 la sera, lo saluti. Sì, buonasera Davide. Ciao, compagno Mastrangeli. Beh, compagno, cittadino, no compagno? No, cittadino, lui ha assistito a un'aggressione in diretta che mi hanno fatto durante la trasmissione. Ma che è successo, Mastrangeli? Hanno aggredito Parenzo? Sì, diciamo che Parenzo, secondo me, lo aggrediscono tutti i giorni, perché è talmente simpatico che si trova spesso dove non si dovrebbe trovare, al momento sbagliato, nel punto sbagliato. Scusi, sia, senatore Mastrangeli, adesso andiamo subito a quello che succederà alle 19, secondo me è gravissimo, io la difendo a spada tratta, Mastrangeli, subito, la spada è una vergogna che è il Movimento vergogna. 5 Stelle, il gruppo al Senato, non so che cosa, del Movimento 5 Stelle, si riunisca oggi, dopo il discorso di Napolitano, con tutti i problemi che ci sono, per espellere uno che va alle trasmissioni televisive. Peraltro, io dico, aggiungo una cosa. Mastrangeli si comporta in maniera corretta, cioè fa una follia, secondo me, quello di non partecipare ai talk show, però non è, fa interviste, non partecipa al dibattito, vorrebbe partecipare, ma gli è impedito. Sbaglio, Mastrangeli? Assolutamente giusto. Io tra poco verrò processato per il gravissimo delitto di intervista televisiva. A lei le sembra normale in Italia? Siamo in Italia o in Corea del Nord? Beh, guardi, io lo dica, però scusi, ma lei anticipi la cosa, esca dal 5 Stelle, dica io mi dimetto dal gruppo parlamentare e vado nel gruppo misto. Allora, siccome questo processo l'ha richiesto Vito Crimi, spero che sia solo lui ad avere questa idea antidemocratica. Adesso andiamo a vedere che cosa dicono gli altri colleghi e pretenderò assolutamente la diretta streaming dell'evento, perché noi ci siamo sempre vantati della trasparenza. Bravo. E direi che 8 milioni di italiani che ci hanno votato, 786.000 laziani che mi hanno votato, 50.000 iscritti al Movimento 5 Stelle hanno il diritto di ascoltare questo processo farsa che sta per accadere. Scusi un attimo, ma lei che notizia ha? Cioè, sarà espulso probabilmente, mi dica la verità. No, io secondo me è solo Crimi che ha questa idea balzana in testa che possa essere espulso un parlamentare, ma un parlamentare, Davide Parenzo conosce bene questa battuta, un parlamentare non può non parlare, altrimenti che parlamentare sarebbe? No, ma io sono d'accordo con lei, il problema è che... parlamentare. Scusi, adesso non voglio fare un discorso di leggi, di regole, di cose, perché non me ne frega niente. Dica con noi, Crimi vergogna, Crimi vergogna, Crimi vergogna. Mastrangeli. Ma comunque io sono sereno, sono convinto che solo Crimi la possa pensare in questa maniera. Mi rifiuto di pensare che 163 colleghi possano espellere un loro collega non perché ha rubato, non perché ha tradito il movimento, ma perché ha fatto alcune interviste televisive. Scusi, però mi dica una cosa, Mastrangeli, lei che è di Cassino, ha 41 anni, è stato anche al Viminale, ha fatto l'autista, se non sbaglio, per tanti anni, no? Allora, ho fatto anche il poliziotto di strada, se per il poliziotto di Stato, cioè uno, insomma, non è l'ultimo degli arrivati. Non è l'ultimo stronzo. Non è l'ultimo stronzo, magari è stronzo per qualcun altro. No, lo dica, non sono l'ultimo stronzo. Non sono l'ultimo degli arrivati, ma al di là di questo, io l'impressione mia è questa, Mastrangeli, che la cacciano per essere andato dalla D'Urso. Questo è molto probabile. Cioè, se lei fosse andato, che ne so, da qualche altra parte, non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò. Diciamola. Molto probabile. Tant'è vero che io io aspettavo che il giorno stesso Crimi si autoespellesse. Perché? Perché anche lui allora è stato in un talk show, quello di Porta a Porta, addirittura seduto sul divanetto accanto, sul divanetto bianco accanto a Bruno Vespa, che Grillo considera il peggiore di tutti. E io allora aspettavo la sua autoespulsione, invece siccome non è arrivata e siccome è trapelata poi questa cosa nei giornali il giorno successivo, ho chiesto io la sua espulsione, perché se lui chiede la mia, io chiedo la sua di espulsione, mi pare ovvio. Scusi un attimo, ma Crimi perché ce l'ha tanto con lei? La mia richiesta provocatoria, perché, certo, insomma, è assurdo che stiamo a discutere di questo con tutti i problemi che ci abbiamo in Italia e con tutte le cose che deve discutere il Movimento 5 Stelle. Scusi un attimo, ma Mastrangeli, ma perché Crimi ce l'ha tanto con lei? Non è perché è più bello lei in televisione? No, io penso. Una volta lei l'ha detto, sono più bello di Crimi. No, ci sono sette peccati capitali. Sì. Ci sono sette peccati capitali. Cioè? E uno di questi è l'invidia. Semplicemente è invidioso di me, non lo so perché. Ma perché è più bello lei? Lo è da sempre. Perché lei è più bello? Perché lei è più bello? Comunque io me ne faccio una ragione, non è un problema. Sono cose che capitano, ma assolutamente non tollero che possa essere calpestato l'articolo 21 della Costituzione in un gruppo parlamentare. Sì. È assurdo. Ma Stangeli, scusi, è un club di golf, noi rappresentiamo la nazione. Certo, scusi. Non è che uno si può fare le regole che gli piace dentro uno statuto di un gruppo parlamentare. Ma Stangeli, scusi un attimo, però io anche qui ho un'impressione, come sulla questione della D'Urso. Se lei fosse andato in un club esclusivo degli intellettuali, nessuno avrebbe detto niente, anche in televisione. Dalla D'Urso invece ha commesso un peccato capitale. Ma lei va dalla D'Urso perché... E allora, per espellere il codice di comportamento dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, prevede che solo per palesi violazioni del codice di comportamento si possa richiedere l'espulsione. Io non ho violato assolutamente nulla, perché dovrei essere espulso? Perché qualcuno dice mentre gli altri lavoravano lei andava in TV dalla D'Urso. Assolutissimamente no, io lavoro tutti i giorni dalla mattina alla sera, come tutti ben sanno, e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Quel giorno ero andato per riparare la mia reputazione vilipesa il giorno prima in una riunione a cui al primo punto dell'ordine del giorno era discutere o meno il caso Mastrangeli. Per fortuna ha vinto la ragionevolezza e la maggioranza ha deciso di discuterne questa settimana, e in quella discussione si sono dette cose infamanti sul mio hanno detto che io partecipavo ai talk show, addirittura ha commesso il reato di ingiurie ingiuriandomi con la parola serpe, e quindi io sono dovuto andare a riparare questa vilipendio al mio onore e all'onore dell'istituzione che rappresento, visto che io rappresento la nazione a norma dell'articolo 67 della Costituzione. Chi l'ha detto serpe? Mastrangeli? È un deputato del Movimento 5 Stelle. Chi l'ha detto? Mi riservo di querelarlo, ci abbiamo 90 giorni di tempo e con gli avvocati lo stiamo valutando. Scusi un attimo, ma perché crimine? Anche perché mi voglio anche levare la curiosità di vedere se questo deputato si avvarrà dell'immunità parlamentare. Oh, questo è buono, sì, certo, questo è perché là c'è, ovviamente avete sempre, il 5 Stelle ha sempre detto no, l'immunità parlamentare è una farsa, eccetera. Allora abbiamo il traffico, però mi dica la verità, qualcuno dice Crimi è invidioso di lei perché lei in televisione riesce meglio, certo che è meglio andare dalla D'Urso che le gaffe che ha fatto Crimi, no? E le gaffe in questi mesi. Crimi è il nostro portavoce di gruppo. Ha fatto io un non sacco gli di graffe. Nulla, continui a fare il portavoce di gruppo, siccome in un gruppo parlamentare ci sono tante opinioni diverse, poi votiamo a maggioranza, io voto secondo maggioranza, però continuo ad avere le mie opinioni e pretendo di poterle manifestare liberamente. Di conseguenza io continuerò all'infinito se ci saranno degli inviti da parte di giornalisti a rilasciare interviste. Punto e basta. Allora, traffico, torniamo subito. È vero che le ha scippato un'intervista da Vespa? Mi risponda. È vero che le ha scippato? Saluto che devo andare al processo. No, che processo? Un attimo solo, 5 minuti. Mastrangeli, un attimo. Ci sentiamo più tardi. No, allora, che dai. Più tardi, alle 7. Ci sentiamo domani. Ma il saluto Davide Parenzo e tutti i radioascoltatori. Un attimo, Un attimo. La saluto, Cruciani. Mastrangeli. Vado al processo. Un attimo, il coro, aspetti, ho il coro per lei. Mastrangeli, grazie di cuore. Non lo cacciate, è una vergogna, fa solo delle interviste. È una vergogna, è vero, è una vergogna. Scusi, Mastrangeli, perché voleva portare sua moglie al Senato, al ristorante? Assolutamente falso. Io sono andato, ero con un gruppo di colleghi, sì, e era il primo giorno di lavoro, non conoscevo i regolamenti, sono arrivato, ho chiesto possiamo entrare tutti quanti? Con la moglie lei stava. No, guardi, possono entrare solo i senatori e diciamo i collaboratori. Ma voleva portare sua moglie, voleva portare sua moglie alla mensa del Senato? A quel punto ho fatto marcia indietro e sono andato a mangiare in un bel ristorante lì vicino. Vabbè. Con 13 euro ho mangiato a base di pesce e me lo ha persino indicato un cortese commesso, persino ciociaro come me, è stato gentilissimo, mi ha fatto mangiare meglio a miglior prezzo che nella mensa. Perché lei è un nella grande. Mensa, forse non tutti lo sanno, ma si paga. Lei è un grande. Traffico. Arrivederci. Traffico. Domani, ci sentiamo domani. Traffico. Monellacci. La Zanzara. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uomo. Marino Mastrangeli, un mito, una leggenda, non lo cacciate per delle interviste televisive, non lo cacciate perché è andato dalla D'Urso. Che male c'è ad andare dalla D'Urso? Ora, per carità, c'è libertà di critica, di manifestare quello che volete. Ovviamente il golpe è una pagliacciata assoluta, tra l'altro poi si è tirato indietro dicendo che la polizia gli ha impedito di arrivare a Roma. Ma se ha fatto un accordo, la polizia gli ha spiegato che se fosse andato in piazza sarebbe scoppiato un casino, e quello lì l'ha capito e per la prima volta ha avuto senso di responsabilità e ha convocato la conferenza stampa il giorno dopo. Allora, no, ovviamente hai ragione, però... No, è andata così e riprendo tutte le querele, esattamente hai ragione, dopodiché io mai mi sarei immaginato di difendere Dario Franceschini, che politicamente politicamente non mi è mai piaciuto, la dico tutta, però Dario Franceschini è quel cretino, perché è un cretino, un idiota, un cretino che è andato lì al ristorante e l'hanno presa a parolacce, per carità, non è un'aggressione, c'è diritto di critica, d'accordo, per carità, però aizzati dalla parola golpe di Grillo, alcune persone sono così, defluivano, sciamavano per Roma come fossero ultra, scorazzavano come fossero ultra, prendendo a parolacce tutti. Sentiamo Franceschini. Che te vada per traverso, che te vada per traverso, dammi i soldi, mortacci tua che sentiremo più avanti, 880024 0024. Franco da Milano, buonasera. Buonasera. Io sono contro tutti lì, hanno eletto ancora il presidente, cioè per me non capiscono un cazzo tutti, non si può rieleggere ancora il presidente, poverino, ha 88 anni, sono tutti degli imbecilli. Ma lei quanti anni ha, scusi Franco, quanti anni ha lei, scusi? 60, sì. Qualche ma il problema tutti... è la lucidità di una persona a 88 anni oppure qualche imbecille che ne ha 35 e va per strada a gridare buffoni, teste di cazzo e cose di questo tipo? Esatto, anche quello, sono tutti da mandare via, tutti cazzo a ricovero, come fate Vabbè. Voi, chiamate sempre cazzo alla Croce Rossa, chiamate anche per quella gente lì. Ma per quella gente lì chi? Chi? Tutti, i parlamentari, tutti i parlamentari, sia destra, sinistra, tutti. Si faccia una siringa di Valium, lei Franco, faccia una bella siringa di Valium, perché ne ha bisogno. No, è giusto, non ne possiamo più tutti, qua siamo ma stanchi non è po di chi? Parlamentari. Ma di chi? Siamo stanchi e che vuole fare? Infatti adesso c'è la monarchia di Napolitano. Come c'è la monarchia di Napolitano, decide tutto lui, no? Ma che cazzo c'entra, mi scusi? No, c'entra, adesso non c'è più, il Parlamento non conta più niente, conta solo Napolitano che farà il governo, eccetera, eccetera. Non conta un cazzo nemmeno lui, non conta niente nemmeno lui. Va bene, Rodolfo da Padova, buonasera Rodolfo. Sì, ciao, buonasera. Vada. Prima di tutto complimenti veramente per l'intervista al senatore Mastrangeli, anche perché oggi io ho postato su Facebook la sua richiesta di espulsione di Vito Crimi. I miei amici sono divertiti tantissimo, uno mi ha scritto: no, non fatelo, espellere Vito Crimi è come espellere l'orso Yogi da Yellowstone. E questo mi sembra abbastanza ironico, perché oggettivamente il Movimento 5 Stelle in questi giorni ha un po' perso molto del capitale elettorale che aveva fatto, soprattutto perché questo gente... non lo so, francamente. Ma particolarmente io nel mio piccolo caso non lo rivoterò più personalmente, perché sono la gente, perché non impone un presidente a fare quelle scenate indegne. Io poi ho visto anche l'aggressione a Parenzo e volevo fargli la mia personale. Ma io non ho visto, che è successo? Ti ha aggredito uno del 5 Stelle, Parenzo? Ma che durante la diretta, davanti al Quirinale con Mastrangeli e altri ospiti, a un certo punto si avvicinano un gruppo di cittadini, perché loro si chiamano, cominciando a urlare contro Orlando del Partito Democratico, da rispondere. Io ho detto: ma che cazzo, sono in diretta, che cazzo vuoi? E questi qua hanno cominciato a urlare ancora, dice: noi siamo cittadini, dobbiamo parlare. Dico: io sto lavorando, cittadino, che vuol dire che devi parlare, amico mio? E questi sono scatenati. E io ho mandato tutto in diretta, ovviamente, tutto documentato, tutto in diretta. Abbraccio schifo, riportacci. Io vorrei parlare con questo signore, questo qua che a un certo punto ha visto Franceschini e ha fatto: Franceschini, riportacci tu, avvolto nella bandiera del Partito Comunista, non so che cosa, Rifondazione Comunista, ma non è importante. C'è qualcuno che mi scrive: non è del movimento. E chi se ne frega che non è del movimento? Ma che non è del movimento? È uno chiamato in piazza da Grillo che voleva o Rodotà o morte, che gridava o Rodotà o morte. Questo è il punto, hai capito? Ma io l'ho capito benissimo, quel giorno lì era davanti alla Camera e ti dico questo: il Parlamento a un certo punto è stato circondato da questi cittadini. Vabbè, allora? Per far uscire i deputati, addirittura, l'onorevole La Russa, che non riusciva a uscire a piedi, hanno dovuto la scorta inventarsi un escamotage, per cui hanno mandato davanti un'ambulanza e dietro le due macchine per farsi aprire tra le ali della folla inferocita. Una cosa incredibile. Stefano da Milano, buonasera. Luciana, grazie dell'ospitalità. Dica, veloce. Senta, ma diciamo che al di là del fatto che non sappiamo ancora quali sono i numeri delle quirinalizie di Beppe Grillo, e questo fa la differenza, perché sono passati tanti giorni, ma questo miracolo di democrazia ancora non ha dei numeri controllabili. Però mi era anche stupito un po' del fatto che questo Rodotà fosse uno statista. Bisogna leggere un attimino la sua carriera politica. Non è uno statista, questo è un vecchio ambizioso arnese della politica. Bisogna leggere che cosa dicevo del movimento di Beppe Grillo. Sì, è così. Qui pensava ma si sono innamorati tutti quanti di Rodotà, senza considerare che è il contrario di quello che hanno sempre voluto, cioè parlo di quelli del 5 Stelle. Abbiamo il giornale radio 800 24 00 24, iniziamo così una settimana molto calda. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Abbraccio schifo, i mortacci. Pure lo spray a ti zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist, la zanzara twist. Grillo è sublime, straordinario, addirittura magico. Però è proprio un antipolitico un po' fascista. Io lo chiamo il dottor Gribbels, prendendo ovviamente, parafrasando il dottor Goebbels. Questa intervista di oggi di Barca sull'Unità, in cui rivendica il fatto di non aver dato indicazione di voto per Napolitano. Che cos'è questo gesto, Gad, per te? È un tentativo di... Il gesto di Giuliano è un gesto di ostentata scortesia nei confronti di un uomo brillante. È ministro del governo Monti! Raffinato Monti, e di sinistra. Considerato l'affamatore del popolo, è ministro di quel governo e fa finta di essere il capo dell'estrema sinistra del PD. Sono cose che mi fanno impazzire. Ringrazio uomo dello sport Giuliano Ferrara. Prendila, scherzala, scherzala. Ti ho beccato. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano giura per il secondo mandato, situazione eccezionale, non potevo sottrarmi, ora un governo, basta con sterili contrapposizioni. Imperdonabili ritardi nelle riforme, se rimarrà lo stallo ne trarrò le conseguenze, non contrapporre piazza, rete e Parlamento. Berlusconi, discorso ineccepibile e straordinario, grillini analfabeti della democrazia, Bersani ha detto quel che doveva dire con eccezionale efficacia. Duro scontro nel PD, D'Alema non ha fondato nessuno, assurdo candidare così Prodi, Civati, traditori finiranno al governo. Grillo, la Repubblica è morta, tutto è pronto per il governissimo, intanto i 5 Stelle mettono sotto processo chi è andato in TV, anche Crimi. Lo spoglio in corso per le regionali in Friuli, leggero vantaggio alla Serracchiani del PD, su tondo del PDL, forte calo dei grillini. Il Napolitano promobis promosso dai mercati, rialzo la borsa, spread ancora giù, ora aspettano un nuovo governo, Bruxelles puntare sul risanamento. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Un Berlusconi in brodo di giuggiole, diciamola tutta, Parenzo. Un Berlusconi in brodo di giuggiole, subito dopo la proclamazione di Napolitano questo pomeriggio, sentitelo. Ho visto invece il comportamento dei parlamentari grillini che erano al nostro fianco e ancora una volta sono rimasto assolutamente stupito di come questi signori siano di una incapacità totale a capire la politica e le situazioni. E mi sono confermato in quel giudizio duro di essere veramente un branco di burattini che prendono ordini da uno squilibrato che è il signor Grillo. E questo credo che sia una cosa che ci renderà difficile il lavoro. Allora, che cos'è che ha detto? Un branco di burattini che prendono ordini da uno squilibrato. Certo, non era il Berlusconi delle grandi intese, non era il Berlusconi moderato, quello che è andato in onda sui grillini. meglio Ferrara comunque. Ancora Berlusconi, però senti cosa racconta. Senti. No, ma rimanda a Ferrara. No, sì, dopo lo rimando, c'è tempo, senti. Io rimango. Le dirò, rivolto anche alla signora Barbara D'Urso che saluto, che entrando le mie parlamentari hanno intonato sottovoce un piccolo corretto, meno male che Silvio c'è. Io ho suggerito nell'occasione di cambiarlo in meno male che Giorgio c'è, e dobbiamo proprio dirlo convinti, meno male che Giorgio c'è. Mi è venuta un'idea, caro Parenzo, facciamo trasformare la canzone dall'autore di Meno male che Silvio c'è in Meno male che Giorgio c'è. Era comunista, ma ora non più. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Siamo qui tra poco, collegamento specialissimo e anche esclusivo, ovviamente Luca da Padova. Buonasera, con chi, 800 con Franco Chiri. aspetta, Luca da Padova 800 24 00 24. Buonasera Cruciani, grazie per avermi chiamato. Non mi ringrazi, niente, vado al sodo. Io volevo semplicemente intervenire in merito a Mastrangeli, mi pare che si chiami il parlamentare del Movimento 5 Stelle che è intervenuto dalla D'Urso. Sono contento, nel senso che io ho votato il Movimento 5 Stelle e finalmente, visto che un parlamentare si comporta come quelli del PDL e del PD, ovvero facendo il contrario di quello che ha promesso di fare, tutto quel popolo di coglioni che continua a votare PD e PDL finalmente verrà dal Movimento 5 Stelle, vedendosi riconosciuto in un atteggiamento che non è quello per il quale il Movimento 5 Stelle è stato. Ma non ho votato, capito che cosa ha fatto sto Mastrangeli. Scusami, scusi Luca. Ma, cosa ha fatto questo Mastrangeli? Mi sembra che sia intervenuto dalla D'Urso in diretta. E allora? Allora? Beh, effettivamente ha fatto esattamente quello che fanno tutti gli altri parlamentari, promette di fare qualcosa che poi non fa. Non ha violato nessun regolamento. Siamo molto contenti. Ma non ha violato nessun regolamento, perché il regolamento. No, ma non c'è un regolamento, guardi, chiunque ha votato Movimento 5 Stelle e partecipi attivamente come sottoscritto nel gruppo Movimento 5 Stelle sa perfettamente che in televisione è meglio non andare, cercare di darsi da fare. Non serve andare ad esternare alcunché in televisione, nel senso che nessuno ne sente la necessità, probabilmente tutti quelli che normalmente votavano PD e PDL adesso, sentendosi raccontate un po' di storie, sì, da questo signore, si troveranno riconosciuti al movimento, quindi vabbè, raggiungeremo il 51%. Io sono molto contento di questo, insomma. Va bene, Luca, infatti medio piace farsi prendere per il culo, e sì, che le persone che prendono per il culo gli italiani vadano in televisione. So che la cosa probabilmente è la turba. Caro Luca, dai risultati oggi in Friuli Venezia Giulia non mi sembra che il movimento di Grillo, i 5 Stelle, siano, come dire, no, in grande avanzata. In... attenzione, collegamento, attenzione. Presidente, presidente, presidente, che è successo? Ci siamo lasciati la settimana scorsa che lei... Presidente, buonasera. Buonasera, la fiducia e l'affetto che ho visto crescere in questi anni verso di me, sì, e verso l'istituzione che rappresento in grandi masse di cittadini, mi sono commosso. Eh beh, oggi l'ho sentita, come anche adesso si sta commuovendo, presidente, ma oggi mi scappava una lacrimuccia anche a me oggi sentendo la televisione. Devo dire che la commozione, il senso del dovere, sì, forse anche un poco i peperoni di pranzo, mi hanno veramente portato a un attimo di grande senso del paese e senso dello Stato. Senta, presidente, ma col trasloco come la mettiamo? Era già stato approntato, bisogna far tornare la roba indietro, che è successo? Quello, abbiamo disfatto alcuni scatoloni, sì, abbiamo deciso comunque di mandare via alcuni regali ricevuti sinceramente improponibili. In che senso, scusi? Ma quali regali di capi di Stato africani, zanne d'elefante o denti, vabbè, di leone, certo, che lasciamo serenamente andare, sì, e teniamo invece alcuni pezzi pregiati. Senta, ma ci spieghi una cosa, quando Bersani è venuto da lei, almeno così raccontano i giornali, sembra sia stato il colloquio decisivo, ecco, cosa le ha detto esattamente il signor Bersani? Lui mi ha chiaramente significato, sì, l'incapacità in realtà di contrastare questo giovane fiorentino. Ah, ecco, questa è la cosa. Questa è la non cosa. Ce n'era per nessuno, ah, come ecco, si suol dire, non c'era trippa per gatti. Bene, ma con che atteggiamento è venuto? Era spossato, era umiliato, si sentiva prostrato? Ci racconta, se può, naturalmente. Devo dire che era in qualche modo rimbambito da questo, ecco, entusiasmo, da questa ondata che lui non riesce a frenare, è rimasto fermo a vecchi principi, è rimasto fermo a una sinistra che anch'io, come avete visto, ho lasciato da tempo. Lei sta dicendo che è più giovane lei di Bersani dal punto di vista politico? E come no, anche se oggi devo dire che salire la scalea dell'altare della patria, sì, è stato sdrucciolevole. Sì, ho visto che è stato difficile, lui era stanco. Ma vogliamo, scusi presidente, ma adesso a poche ore ormai dalla riconferma, a pochi minuti possiamo dire dalla riconferma, che cosa sente? Insomma, si è emozionato, ho visto lì. Devo dire che il groppo in gola mi è salito più volte, insieme appunto un piccolo reflusso, ma tutto ha avuto segno veramente dell'attenzione, sì, della consapevolezza che va tenuta da questo Parlamento. Sì. Ho avuto, gliel'ho detto a tutti. Ah, beh, ho sentito. Caro Cruciani, sì, ho sentito. Caro Cruciani e caro Parenzo, gliel'ho detto a tutti. Ho applaudito, ho fatto questa carezzina ai grillini. Beh, insomma, carezzina. Un poco, perché devo dire, mi dava. Scusi un attimo, bevo. Sì, prego. Sì, certo. Mi dava scuorno che in Parlamento tutti applaudissero tranne quel gruppo, per cui ho cercato, sì, diciamo, sì, di coinvolgerli in un senso di responsabilità, colpo di reni per il Mezzogiorno. Scusi un attimo, presidente, ma ai partiti gliela suonate, quelli applaudivano, ma sono così masochisti, cioè, lei diceva voi che applaudite, poi non avete fatto niente, adesso sintetizzo brutalmente, e quelli continuavano ad applaudire, come mai? Sono inesperti. Beh, come inesperti? Erano emozionati loro più di me. Ah, lei dice che questo. Senta, ma la signora Clio voleva rimanere al Quirinale oppure no? Presidente. Ma la signora Clio assolutamente no. Ah, assolutamente no. Assolutamente no, lei voleva ritirarsi in costiera. Sì, invece... Come... Beh, ma devo dire che anche al Quirinale non si sta malaccio. No, con no, la disoccupazione certo. Che c'è in giro abbiamo, facciamo ancora qualche anno a stipendio fisso. Beh, non c'è dubbio, questo proprio non è bellissimo in questo periodo, però comunque va bene. Presidente, ci può anticipare qualcosa? Ha problemi di pensione napoletana. No, ci può sperare qualcosa, ci può anticipare qualcosa sul nuovo governo? Chi ha intenzione di chiamare? Ho intenzione di risolvere rapidamente questa crisi. Il paese ha bisogno di fermezza, sì, e di unità. Sì. Ho deciso di rifare, come avrete, sì, avrete inteso, sì, un compromesso storico come si deve. Un compromesso storico come, sì, si deve, dunque, insomma, un grande... Larghe intese, grosse coalizioni. Grosse coalizioni, vabbè. Assolutamente. Presidente, grazie, a presto. Mi scusi, Cruciani. Sì. Avete notato che ho dato un passaggio a Monti che andava dalla mia parte. Ah, un passaggio. Questo... Questo, sì, è significativo perché lascio, sì, intendere, sì, un'eventuale presenza montiana nel governo e questa sera ci vuole, lei non me lo chiede ma glielo anticipo, sì, una cena adeguata. Appunto, no, l'ultima domanda Parenzo la voleva fare. Qual è il menù della cena per un presidenziale nella serata dell'insediamento, eccetera. La serata dell'insediamento con i pochi intimi, siamo una quarantina. Beh, insomma, pochi intimi al, sì, Quirinale, abbiamo scelto frittata di maccheroni, sì, fatta saltare per Benino, e di secondo cervellatine. Beh, insomma, no? Una salsiccina napoletana di suino da leccarsi i baffi. Presidente, mi raccomando, vieni sotto la tavola. Stia viva leggero. L'Italia, viva la Repubblica e viva il Parlamento. Grazie. Beh, dopo questo collegamento, Borsa. La zanzara. Zanzare. Io trovo in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare. Una parola d'uma dirà te più vista e ci interessa non dormire. Bacca sarà mio ospite a Zeta venerdì prossimo, accompagnato da queste benedizioni in collegamento, che gliele canto io, sì, la desemplificazione, grande spettacolo, il catoplepismo. Che buffonata questa di Bacca, spero che i giovani turchi se lo mangino, sai, proprio spolpando l'osso e poi buttando l'ossigeno sul tavolo del PD. Noi siamo tutti sulla stessa barca. Fino in Siberia. Oltre un certo limite di stupidità e di provocazione, bisogna che le questioni vengano regolate non dalle persone per bene che possono soltanto usare la parola e discutere, ma dall'arma dei carabinieri fedele nei secoli. Via la teppa grillina dal palazzo della democrazia italiana. Ricomincia quel rumore. Abbraccio schifo, i mortacci! Io lo voglio conoscere questo signore. Parenzo, ti prego, dammi una mano. Militanti di Rifondazione Comunista, non so se questo sia un militante di Rifondazione, era avvolto dalla bandiera di Rifondazione. Chiamatemelo, chiamaci, ti prego, chiamaci. Quello che dice ali mortacci tu a Franceschini. Abbraccio schifo, ali mortacci tu! Io lo voglio conoscere, voglio guardare in faccia. Ci voglio parlare anche solo per telefono. Ci chiami. Abbraccio schifo, ali mortacci tu! Siamo qui, 80024 0024. Maurizio dalla provincia di Livorno. Buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io volevo dare una risposta al presidente. Quale presidente, scusi? Al presidente della Repubblica. Sì, risposta, lei vuole dare una risposta al presidente della Repubblica. Sì, prego. Ho effettuato azioni di responsabilità e di merito dal 2003 al 2013. Cosa ha fatto lei? Azioni di responsabilità, ma di contro merito. Chi? Ma contro chi? A fronte di competizione, sì, lavorativa avviata dal sindacato. E ho ricevuto patrocini infedeli, tentato mobbing, sì, truffa di riqualificazione, sì, favoreggiamento. Non ce ne può fregare di meno, no, ma Maurizio, non ce ne fotte nulla di queste cose qua. Io sono arrivato a presentare il presidenzialismo. Che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ho fatto la mia richiesta di presidenzialismo, richiesta del riesame, richiesta del rimedio interno. Sì, ma chi ha fatta questa cosa? La richiesta a chi è che si chiede? Ma chi? I 10 saggi avrebbero dovuto rimediare. Sì, ma di chi sta parlando lei? E che io ho querelato per attentato alla... Ma chi? Ma chi ha querelato? Ma cosa dice? Qui hanno violato la Costituzione. Ma chi ha violato la Costituzione? Maurizio, ma perché non c'è un medico che la assiste stasera? Ma io non capisco. Non è questione di medico. Un presidente che ha piena conoscenza di un caso di merito, dignitoso e responsabile delle sue azioni, ma avrebbe lei comunicato le questioni immediatamente già dal 2009. Ma che di cosa è sta parlando? Del caso di merito. Ma quale caso? Scusi, il suo... blocchi il disco un attimo. Scusi, pronto? Caro Maurizio, lei ha fatto un'istanza. Lei ha fatto un'istanza al presidente della Repubblica, giusto? Io ho fatto un'istanza, sì, ho querelato oggi pomeriggio l'intero Parlamento per attentato alla Costituzione. Lei ha querelato però, l'intero Parlamento. Questo è buonissimo, ho querelato l'intero Parlamento, guarda, una cosa grave, querelato l'intero Parlamento. Ma perché mi deve far andare i matti alle 19.39? Querelato l'intero Parlamento. Ho violato il diritto del merito e violato l'articolo 3 e l'articolo 48. Vabbè, ma 4. Scusi, ma perché mi deve far arrabbiare? Vabbè, ma qui c'è un caso grave di malattia, evidentemente. Perché? Ma lei ha mai gustato? Ha mai pensato di farsi curare, ma seriamente? Oppure ha mai gustato un ghiacciolo di urina, lei, signor Maurizio? Diciamo che lo Stato mi avrebbe regalato una falsa invalidità e che ho rifiutato perché io ritengo di essere molto sano e un lavoratore onesto. Certo, ma lei ha mai gustato un ghiacciolo di urina? E io ho gustato tutto quello che ho subito, è una competizione lavorativa vinta che deve essere solamente riconosciuta dal Parlamento. Vabbè, ma il Parlamento deve riconoscere, va bene. Senta, vicino a casa sua, provincia di Livorno, dove si trova lei, caro Maurizio? Cecina. Cecina, ecco, a Cecina credo che ci siano anche dei medici abbastanza capaci in quella della Toscana. No, forse vi state sbagliando. No, ma noi non ci sbagliamo. Non sapete che cos'è il merito? Sì, no, ma non la ce truffa. Ne frega niente. Sì, la truffa lo sappiamo che cos'è, cosa significa la truffa. Però... adesso, insomma, che lei abbia querelato l'intero Parlamento per attentato alla Costituzione, abbia denunciato, ecco, questo insomma un po' è violazione dei diritti. Sì, ma non c'è l'articolo 3. Ah, beh, allora. Insomma. No, certo, ha ragione. Certo, ha ragione, non c'è dubbio. Non è sbagliato. Va bene, Stefano da Roma, buonasera. 10 anni di competizione. Sì, 10 anni di competizione. Ma non lo so, non so manco che è la competizione. Stefano da Roma. Ma perché hai detto sì, buonasera. Ma no, va bene, che devo dire? Va bene. Uno chiama e dice che ha querelato l'intero Parlamento, dice va bene, grazie. Ma come grazie? Ma che devo fare? I medici sono. Ma i medici sono già allertati. Medici, che devo fare io? Ma non puoi dirgli va bene, se no pensi di aver detto una roba intelligente, ho querelato l'intero Parlamento. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera. Vada. Senta, io volevo dire una cosa, ma perché Grillo alla fine non ha fatto il comizio il sabato sera? Cioè, secondo lei, perché alla fine poi l'ha spostato? Per motivi di ordine pubblico. Per motivi di ordine pubblico, come ha appena detto Parenzo, credo, Sì, sì. Ma però motivi di ordine pubblico, però cioè uno come Grillo non si dovrebbe fregare dei motivi di ordine pubblico. Infatti beh, alla fine scappa il matto. Alla fine è venuto a miti consigli, come dire, a miti consigli. Prima ha chiamato al golpe milioni di persone davanti bravo. Al Parlamento, eccetera. Bravo. E poi se l'è fatta sotto, questa è la sostanza. Ma io però sono rimasto male, cioè io ero pronto, io ero lì a Piazza Venezia, ieri stavo con gli amici. Cioè, alla fine comunque lei se stava a divertire a Piazza Venezia dice perché andiamo a fare un po' di casino davanti alla Camera. No, aspetti. Cioè, io comunque stavo ero uscito per conto mio, però comunque stavo seguendo con molta attenzione appunto. La questione. No, aspetti, cioè la stavo prendendo seriamente. Sì. Però io sono rimasto molto deluso. Andare dalla fidanzata a pomiciare, no, ti metti a fare il casino per le strade. Sì. Ma non è vero, non è vero. Rodotta no. Cosa? Vai dalla fidanzata a casa, beviti una birra, fatti una vita. Non è vero. Rodotta, e allora? Golpe, vai a casa, fai lavoro con la fidanzata oppure col fidanzato. Certo, io la fidanzata la vado a prendere adesso all'aeroporto, va bene, poi vado a casa, domani vado a lavorare, sono uno che lavora tutti i giorni, ok? Però io questa cosa qui non l'ho capita, cioè sono rimasto comunque deluso da questa cosa di Grillo. E non vorrei che sotto ci fosse qualcosa che sinceramente mi cambierebbe la prospettiva su 5 Stelle. Ma scusi, lei lo conosce il signor Rodotà? Io il signor Rodotà personalmente ovviamente non lo conosco. No, ma però... sapeva chi era, cioè sa chi è. Certo, come no, certo. Sì. Quando è stato in Parlamento il signor Rodotà? Guardi, non il curriculum non l'ho letto, non però, l'ho letto. Però lei stava all'authority, alla privacy. All'authority, alla privacy, ovviamente alla privacy, non all'authority. Ma comunque, insomma, Stefano, non ho capito bene, ma lei sa che quanti anni ha, per esempio? Sì. Allora, è vecchio, anche lui è vecchio, è ottuagenario, giusto? Sta sopra gli 80. 80, più o meno, ma a parte questo, sa che è passato? Ah, no, così per sapere se lei conosce... Allora, so che era di sinistra, sinistra anche lui, sì. Ok? E infatti anche per questo comunque... ha contribuito allo sputtanamento del PD, perché comunque era... Ma quando mai? Che sputtanamento del PD, Stefano? Comunque, Mastrangeli nel processo ai 5 Stelle sta dicendo, sentite, io non ho paura di niente, io sono Bruce Lee, io ne atterro 50 alla volta. La zanzara stronza. C'è da chiamare, no, l'ambulanza, 4 ambulanze per quello che sta avvenendo a questo processo nei confronti del signor Mastrangeli, una roba incredibile. C'è uno che ha detto a un certo punto: c'è chi è più bravo a fare i vermicelli, chi a fare la polenta. Così mi suggerisce non leggerlo. Giacomo da Firenze, buonasera Giacomo. Buonasera Susciani. Dica. Senti, questione Franceschini, sì. Sarò breve, secondo me è una fava. Come, scusi? Secondo me lei Cruciani, Giuseppe da Roma, sì. È una fava. Sono una fava, sì. Una fava. Sì. È un toscanismo di cui Parenzo talvolta... Cioè una pippa, no. Che cosa vuol dire? Una pippa? Fava, sì. No, una fava è una cosa che non si può... Un giorno le spiego, ora un... Ma no, mi spieghi adesso, scusi, mi spieghi. Una fava, sì, è un sinonimo di pippa. Un cazzone, che cos'è? Un cazzone, ecco, un cazzone. Una fava è inteso... Una fava. Però nemmeno cazzone rende l'idea. Un pirlotto. Le mando un tweet, qualcosa, perché è un... E perché? Mi dica, perché? Allora, questione Franceschini. Sì, sì. Allora, Franceschini è un deputato della Repubblica, un uomo pubblico, sì. Va bene, che non è stato né aggredito fisicamente. Ma infatti non l'ho specificato, eh? L'ha specificato, bene, venga il concetto. Allora, se questo tipo di protesta e di malcontento non si incanalasse in questa maniera, ci sarebbe il sangue per le strade. Questa è una stupidaggine, secondo me è una stupidaggine colossale, è una stupidaggine colossale. Io l'ho sempre criticata questa cosa qui. Senza di noi ci sarebbero i nazisti, senza di noi non sto dicendo lei, sto dicendo quello che dice Grillo, cioè senza di noi ci sarebbero i nazisti, senza di noi ci sarebbe il sangue per le strade, tutte puttanate, tutte cose che non esistono. Ma questo lo pensa ma lei, chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene questa cosa qua? Quale sondaggio? Quale studio? Quale? Sondaggi, via Cruciani. No, ma dico sondaggi, studi, cose. Chi lo dice? Perché allora, dovrebbe scusi, essere così? Mi spieghi scusi, perché? Franceschini, ma mi dispiace sia Franceschini, potrebbe essere qualsiasi altro, non niente contro Franceschini. Ma guardi che Franceschini può essere criticato come tranquillamente. Bene, può essere anche pesantemente. Con una battuta, con un'invettiva anche abbastanza fascistica, senza offenderlo, ed è un politico e deve accettare questo dopo 20 anni. Posso dire che se uno va davanti a un ristorante e si ferma per fare quei cori nei confronti di Franceschini, secondo me è un imbecille, lo posso dire o no? Ma lo vuol dire? Ma posso essere contrario a questa cosa lei dice? Certo, per carità, allora, tranquillamente, sono contrario al tifo da stadio in questo modo, a gridare a uno, sai, pezzo di merda, sei un imbecille, dopodiché poi tra di noi la sera con gli ascoltatori ci si ammazza anche di parole, di ingiurie, eccetera, eccetera, ma questo è un altro discorso, io non è che vado in piazza a sciamare tra le vie di Roma a dire ai politici, oh, che cos'è che diceva il cretino Franceschini, sentiamo? Abbraccio schifo, riportacci tu! Cioè, ma lei si rende conto a che livello siamo arrivati, chiedo, o no? Chiedo scusa, Luciano, chiedo scusa. Bene, ma ci rendiamo conto a che livello la classe politica e dirigente ci ha portato in questo paese? Ma che vuol dire? Ma questa è espressione di imbecillità e basta, uno che dice diretta, così. Non la può negare, scusi. Vabbè, comunque. È anche vero che Franceschini, come mi dicono, aveva usato la parola bastonare a proposito dei cosiddetti traditori, Però, comunque, grazie. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Siamo qui 800 24 00 24 con la senatrice Laura Puppato, Partito Democratico. Buonasera senatrice. Buonasera. Come va? Abbiamo vissuto tempi migliori, no? Tempi migliori, sicuramente. Soprattutto siamo in eterna prorogazione, quindi. Ma non stia così giù. Non sia così giù. Abbiamo un presidente questa sera, si è insediato. Come eterna prorogazione, lei si riferiva a Napolitano, dice lei, no? Sembra una prorogazione su tutto ormai, no? Perché. Senta, lei l'ha votato, perché chiariamo subito questa cosa. Ha votato il nome Napolitano sulla scheda, Certo. Non c'è dubbio. Un po' col turandosi il naso? un po' sì. No, con molta tristezza, perché noi stiamo chiedendo a una persona di 90 anni di procedere nel suo cammino, in realtà per disperazione, perché la politica è stata incapace di rappresentare un'altra figura che fosse, come dire, nelle condizioni di fare di avere il ruolo di presidente, quindi proprio incapacità della politica, quindi essere, questo è vero, non c'è dubbio, come dire, applaudirsi. Io ero a Montecitorio, mi sono personalmente, anche se non c'entro perché sono nuovissima, e quindi si è un po' vergognata, non ho responsabilità che possono essere ascritte ai precedenti, però è vero che in alcuni passaggi del discorso io ho sentito chiaramente un napoletano e quindi un Presidente della Repubblica che sgrida in maniera precisa. E lei ha applaudito anche quando veniva sgridata? Perché molti hanno applaudito anche quando venivano sgridati, che mi è sembrato anche un po' ridicolo, francamente. Appunto, stavo dicendo questo. E vedere che, come dire, per esempio nei banchi del PDL si applaudiva quando gli si è parecchio bastonati per il fatto di non aver fatto una nuova legge elettorale, oppure quando si rivolgeva a tutti, si rivolgeva a tutti, non al PDL, presidente, si rivolgeva a tutti in generale, non solo a quelli del PDL. Insomma, è vero che gli applausi, per esempio, o quando per esempio ancora meglio diceva che appunto non si può discutere appunto della divisione dei poteri e quindi della magistratura, e applaudivano dal PDL. Insomma, ci sono state delle situazioni, dei momenti davvero incredibili, no? Davvero poco. Senta, ma è vero che lei potrebbe in qualche modo, insomma, potrebbe lasciare il Partito Democratico per andare con Sello in un partito più o meno di sinistra, sì o no? Allora le racconto questa bella chicca. Mi ha visto evidentemente quella giornalista seduta in una poltroncina vicina avendola a discutere animatamente, e ha fatto uno più uno, perché nessuno me l'ha chiesto. Se questo è giornalismo, io sono Madre Teresa di Calcutta, insomma, perché anche fare i giornalisti è un ruolo che dovrebbe essere svolto con una certa attenzione. Non è che hanno scritto uno suo virgolettato "potrei andare con Sel", hanno detto sì, si vocifera, ci sono voci di un passaggio a Sel di Laura Puppato. Vabbè, non è un crimine, non è che le hanno dato della terrorista, No, ma uno lo chiede, no? Non sono mica morta, sono lì, sono di fronte a te, me lo chiedi e io ti dico quello che penso. Allora, questo è uno. Siccome oggi mi sono seduta insieme con le mie amiche, con Ilaria Capo e con Ilaria Borletti, durante il discorso di Napolitano nel gruppo di Scelta Civica, penso che qualcuno domani scriverà che mi sono iscritta a Scelta Civica. Cosa che mi sembra difficile per la però. Non credo, perché per esempio Quintavalle, che è un senatore di Scelta Civica, ieri, contrariamente a me, ha votato Napolitano, ha votato Rodotà. Quindi voglio dire, ci sta dicendo che un senatore di Scelta Civica ha votato Rodotà? Mi risulta, No, non lo so, magari sbaglio io, non lo so. Magari. Quindi voglio dire, ci sono opinioni differenti, no? E mentre io ho votato Napolitano, quindi voglio dire, non è che tu, che lei non andrà non andrà a non passerà a Sel. Ma non capisco perché sia uscita questa notizia. Cioè, lei lo sa, siccome è uscita fuori questa cosa, lei sta dicendo, è venuta fuori da una giornalista che mi ha visto parlare con Vendola, non so con chi, dunque è una è una notizia falsa. Io adesso glielo richiedo, sono qui, è una notizia falsa. È una notizia falsa, dunque lei non andrà a Sel. No, io sono fondatrice del Partito Democratico e penso che il Partito Democratico mi assomigli molto di più di quanto assomiglia ad altri rappresentanti politici. Per esempio? Insomma. È molto più vicino alle sue posizioni piuttosto che a quelle, che ne so, di Fioroni, per esempio? No, non faccio nomi, dico che sicuramente io rappresento molto, credo, il Partito Democratico, visto e considerato che rispetto per esempio allo statuto che ci siamo dati e al progetto politico che ci siamo dati, e che fino a ieri era il progetto politico del mio segretario, di Bersani, che era quello del cambiamento, delle riforme importanti e radicali da fare per questo però paese. Questo progetto politico si è scontrato contro le urne. Scusi un attimo, signor Puppato, ma ci sarà un governo PDL-PD, no? Con dei ministri, lasciamo perdere le formule, un governo con dei ministri del Partito Democratico e dei ministri del PDL, come sembra, secondo me, certo, ma comunque, se ci fosse un governo di questo tipo, lei lo voterebbe, darebbe la fiducia a un governo di questo tipo? Domani abbiamo la direzione e su questo ci confrontiamo. Io credo di poterle dire questo, che se il mandato che ci hanno dato gli elettori, che non è solo il mandato del Partito Democratico alla coalizione di centro-sinistra, ma è un mandato che almeno per il 60% dei voti raccoglie questa profonda necessità di cambiamento nel paese, sì, è stata identificata da noi. Però io le ho fatto una domanda precisa, se ci fosse, se ci fosse un... No, le sto spiegando. Sì. Allora, ci sono due ipotesi, no? La prima, sì, è che si vada a un governo di emergenza nazionale in cui si fa una legge elettorale e poco altro, sì, per quanto riguarda il lavoro, e le questioni a quel, sì, punto possono essere, secondo me, legittime e verificabili, insomma. Sì. Dall'altra può esserci invece un governo delle larghe intese con un progetto politico di lunga gittata, nel qual caso le mie perplessità sono notevoli. Mm. Cioè, mi sta dicendo che un governo per di scopo può andare bene anche con ministri del PDL, col PD ovviamente, e invece un governo che non ha un termine preciso e che invece è un vero e proprio governo delle larghe intese, lei non lo voterebbe mai, giusto? Io le sto dicendo che ho fortissime perplessità a pensare che il voto del 25 febbraio ci consenta di fare questo. Ah. Ho capito, però ci sono anche delle condizioni che sono cambiate, no, ma questa è la mia considerazione. Le condizioni sono cambiate, mi scusi. Beh, scusi, non ha visto quello che è accaduto. Vabbè, sono successe delle cose nel frattempo. No, se non abbiamo tutto. La maggioranza al Senato. Ah, solo questo? Non è che un paese non si cambia. Si è dimesso il suo segretario, le faccio osservare che si è dimesso il suo segretario, non è successo quello che è successo nei giorni scorsi. Se per lei non è successo nulla, va bene, vuol dire? Alzo le mani. Il partito deve fare un governo di larghe intese con il PDL, che si è dimesso il segretario. Veramente no? è quello che chiede Napolitano, è sostanzialmente quello che chiede il Presidente della Repubblica, però magari non... È quello che chiede il Presidente della Repubblica legittimamente, ma sì, sul quale dice anche, ha affermato oggi, sì, che il Parlamento, nell'ambito delle sue prerogative, deve rinvenire una maggioranza. La maggioranza che noi abbiamo perseguito per molto, sì, tempo, come lei sa, sì, era la maggioranza del cambiamento con il Movimento 5 Stelle. Il problema che c'è è che quel movimento è sostanzialmente sordo, sì, a ogni iniziativa, diciamo, di governo insieme. Lei riproverebbe? E poi l'unica cosa che posso dire, io ho fatto un appello oggi a Grillo dicendo che il tempo è finito. Cioè, lei riproverebbe? La corda si sta spezzando. Cioè, no? Lei riproverebbe di nuovo con i 5 Stelle? Con un altro personaggio, no, ma uno è concreto, sì, lei ha fatto un appello, l'ho capito, lei riproverebbe, sì, di nuovo un tentativo, farebbe un nuovo tentativo. Beh, ovviamente adesso no. Che visto che pareva che l'ostruzione fosse, a parte che non si capisce bene Bersani, cosa vogliono, sì, ma certo, insomma che insomma le vecchie, diciamo, guardie, sì, del partito non fossero, diciamo, adeguate, sì, a portare avanti un'ipotesi di governo, pensare per esempio, sì, che oggi ci possa essere una figura terza, no, come Presidente del Consiglio, che possa essere, sì, indicato da queste due forze, sarebbe un grande successo per il paese. Cioè, lei sta dicendo avremo ora che un governo, sì, avremo un governo finalmente, come dire, politicamente omogeneo. Cioè un governo PD 5 Stelle con alla guida un non Bersani, un altro politico concordato. Una figura che possa essere, sì, considerata da entrambi i gruppi come una figura di garanzia, certo. Ho capito, mi sembra una linea completamente diversa da quella che si prospetta, però ovviamente, beh, sì, è legittimo, cioè, per carità. Fino alla fine, finché non hai votato, tutte le ipotesi sono aperte, e lei prima di, come dire, naufragare spera sempre che invece no, risollevi qualcosa, no? Allora, se ci fosse invece, se ci fosse invece se il suo partito votasse a maggioranza un governo, che poi non è che i governi nascono a termine, un governo in cui ci sono insieme ministri del PD e del PD, e io ripeto questa domanda, lei lo voterebbe questo governo o no? Le ho spiegato prima, cioè solamente nel caso in cui ci fosse un governo per 6 mesi, per un anno, una cosa di questo tipo? Questa è la mia opinione, sì. Allora abbiamo la pubblicità, torniamo subito, 800 24 00 24. Parenzo, poi ti faccio fare una domanda. Ringatto, che ormai è tutto finito. La Zanzara. Essere incazzata con questi qui, dovrebbero essere rappresentanti ma del Paolo, popolo. Ma tu dici che è giusto, ma per la miseria, gente. Ma pensate che proprio questo popolo stia dormendo totalmente. Faccio ma per sentire me, anzi, le reazioni. È un segnale positivo che qualcuno vede che Franceschini. Qualcuno meni qualcuno, no. Che qualcuno vede Franceschini al ristorante e gli dice vergognati, mi dovevi rappresentare e non l'hai fatto. Perché la democrazia è anche questo. Bim. O la democrazia è solo questi stronzi che se ne vanno a giro con le auto blindate. Scappo sotto al letto, non parlare, non gridare. Non credo di dover essere tesserato a 5 Stelle per dire che lo spettacolo che ci hanno offerto è uno spettacolo vomitevole e che il futuro recente, prossimo, che Mauro, ci si sta presentando, Mauro, diresti, è un futuro orribile, diresti che non rappresenta che si è assolutamente di un non i 5 Stelle, questo paese, i problemi, Mauro, di questo paese. Cosa ci ritroviamo? Amato? Pronto? Chi ci ritroviamo? Monti un'altra volta? Mauro, diresti che allora ha ragione di Grillo, mi dispiace niente, dirlo, è un colpetto di Stato. È un colpetto di faccia sotto i piedi tra le dita e comincia. Siamo qui la Zanzara 800240024 con la senatrice Laura Puppato, Partito Democratico. Lei un governo a guida Amato lo voterebbe? Ancora. No, facciamo i nomi perché le condizioni. Vabbè, d'accordo, però ci sono anche i nomi, no? Vi siete scontrati sui nomi, uno potrebbe anche dire Amato non lo voglio, se uno se la pensa così. Non credo così che le persone singolarmente siano così importanti, è importante quello che in realtà dovresti fare in relazione al mandato che hai. Senta, invece un governo, ne so, guidato da Enrico Letta, perché la Bindi ha detto no, Enrico Letta no, le pare normale che uno che un importante dirigente di partito, ex presidente, dica no, il vice, se l'ex vice segretario non deve guidare il nuovo governo? Ma non ha spiegato. Come, scusi? Non ha spiegato perché no. Sì, vabbè, è uguale, cioè, non ho spiegato perché no, ma è lo stesso, insomma. Comunque ha detto Letta no, Enrico Letta no. È strano. Come è strano? In che senso? Sì, no, è strano che la Bindi dica Enrico Letta no, però non, magari vado a leggermi le ragioni. Sì, d'accordo, ma ce ne saranno. Sì, ce ne saranno sicuramente, le ragioni ci saranno, però non è bizzarro che uno dica Enrico Letta no. È bizzarro, no? Sì. No, non è strano. È bizzarro, sì. Concordo. Concorda. Senta, lei ha parlato di terroristi e bigliacchi da espellere, no? Sì. Li ha individuati? Qualcuno. Per esempio? Sono sicura perché sono intuizioni più che... Che ne so, cioè qualche terrorista e qualche vigliacco, chi dove si annidano? Beh, insomma, si annidano sui gruppi che devono rispondere a figure che avevano un certo interesse, diciamo, a evitare che Prodi avesse un quorum di voti tale da essere garantito, sì, come confermato come candidato la mattina dopo, perché in quel caso avremmo avuto la certezza, uno, che sì, Scelta Civica avrebbe votato Prodi e quindi avremmo avuto il quorum. Sì. Due, che era piuttosto probabile anche che Rodotà, come dire, a quel punto sì, scegliesse, diciamo, di non di togliersi, insomma, dalla candidatura. Lui aveva già mandato quel comunicato stampa che mi aveva letto, sì, in cui appunto nel secondo paragrafo diceva che non doveva essere da tappo ad eventuali convergenze, sì, su altro candidato valido, ritenendo peraltro l'amico Prodi certamente un candidato molto all'altezza e corretto e in grado di... Chi non ha voluto Prodi non voleva l'alleanza con i 5 Stelle, in questo senso? Non voleva l'alleanza con i 5 Stelle, non voleva, sì, un presidente, come dire, della schiena dritta, e che certamente che non, Napolitano avrebbe ce l'ha concesso, storta. Non avrebbe concesso sicuramente livelli di garanzia oltre il limite consentito dalla Costituzione a chi? Figure come Berlusconi. Perché invece Napolitano in qualche modo dà maggiori garanzie a Berlusconi? Napolitano è stato più morbido con Berlusconi, il fatto che gli abbia concesso, per esempio, che abbia di fatto autorizzato, insomma, la magistratura a non prendere fin tanto che non venisse eletto il nuovo Presidente della Repubblica, vuol dire che teneva in considerazione il fatto che quello che si stava creando per il fatto che appunto c'era stata la manifestazione davanti ai tribunali, sì, ricorderà, sì, del PDL, eccetera, poteva sembrare, come un'aggressione, un fatto eversivo, e quindi... Cioè lei mi sta dicendo che per Berlusconi Napolitano è una garanzia? Lo è sicuramente, lo ha votato. Certo. No, vabbè, è il fatto che l'abbia votato, lei è una garanzia anche per i suoi processi, dice lei? No, non è una garanzia per i suoi processi, ma certamente, come dire, ha più fiducia di Napolitano piuttosto che di Prodi, ecco. Parenzo, dimmi, che c'è? No, volevo capire, non la preoccupa un po' il fatto di questo abbraccio mortale del Berlusca, che oggi ha fatto elogi sperticati di Napolitano? Questo forse cioè un il, po' vero, la... il vero vincitore è Berlusconi, è Berlusconi di questa vicenda, signora Puppato. Come sempre, sì, il vero vincitore è Berlusconi, ma lui, come dire, di suo esagera sempre in un senso o nell'altro, non ha proprio il senso dell'equilibrio e del limite, no? Quando si esprime, per cui evidentemente ha voluto trascendere anche in questo caso. Scusi, mi dica. Non farei tanto caso a questo, voglio dire, è di sua abitudine esagerare, no? Scusi, ma c'è il rischio salute per Napolitano, secondo lei? È una persona molto anziana, io oggi ho visto che si è commosso spesso, ed è evidentemente stanco, e quello che sta facendo lo sta facendo soltanto per le carenze che abbiamo detto e che la legge elettorale presente ha purtroppo rappresentato. Ma c'è un rischio, c'è un rischio salute per il maggioranza. C'è un rischio salute, cioè secondo lei, da come l'ha visto? Insomma, io vorrei dire, sperare di no per lui, ma in che senso lei ha notizie che io non ho? No, nel senso, sette anni potrà reggere secondo lei? No, ma lui non credo che pensi neanche lontanamente di farlo per sette anni. Io penso che trascorso il periodo appunto necessario per uscire da questa situazione di stallo e di difficoltà estrema per il paese, avremo obiettivamente necessità di un nuovo presidente. Insomma, adesso abbiamo il secondo paese al mondo per vetustà di presidenti. Mi pare che insomma abbiamo dei record che non sono poi così positivi. Anche Rodotà non era proprio un giovincello, diciamolo tutto. Un ottantenne. Sì, non era e tra l'altro anche lui con insomma con una lunga storia, con le sue pensioni, con tutto il resto. Senta, scusi un attimo, i terroristi, allora però mi dica qualche nome, qualche cosa. Un terrorista, un vigliacco che lei ha riconosciuto. Tra i renziani si annidano secondo lei? Guardi, i renziani che conosco io mi hanno garantito che non che però... è stata indicazione precisa da parte di Renzi sul voto a Prodi, che comunque non avevano avuto notizie di altra natura. Dalle Miani? Sì, lì sicuramente un certo numero si annidano, perché è evidente che l'interesse c'era e perché le persone a cui sto pensando sono appunto di quel gruppo e si erano espresse così prima del voto. Allora mi faccio un nome però di cui lei ha certezza. Visto che qualcuno ha pensato di non votare Marini, allora liberi tutti, no? Però scusi un attimo, siccome ci vuole la trasparenza in questi casi, siccome questi qua non si sono palesati e restano 101 persone, non sono pochi, mi dica lei qualche nome di cui ha certezza. Non ho certezza, le sto dicendo. Nessuno purtroppo di loro lo ha dichiarato, ed è questa la cosa terrificante. Cioè, mentre con Marini è vero, si potevano esattamente sapere. Perché i renziani avevano detto che non avrebbero votato. No, per i renziani, perché ci siamo alzati. Io personalmente ho mandato un messaggio preventivo a Persani, gli ho parlato direttamente, ho parlato con il mio capogruppo. Siamo tutti noi, devo dirle, i due terzi del partito contro questa cosa di Marini, erano assolutamente indisponibili a quel punto, che per noi è stato traumatico, per ragioni che appunto erano quelle che preludeva un governo di larga intesa che non era concepito fino al giorno prima, insomma. E invece nel caso di Prodi nessuno si è palesato. È stato un'inversione di tendenza. Quello che è capitato il giorno dopo è stato considerato un tradimento, appunto un atto terroristico, cioè mettere una bomba dentro il partito, no? Addirittura. Per togliere la mano, nel senso che effettivamente l'effetto è stato quello. Vabbè, Dalemiani poi chi c'è? Oltre Dalemiani, so 100, non è che so 100 Dalemiani. Non lo so, probabilmente vado intuitivamente a credere che possa essere qualcuno che sicuramente si è risentito, essendo particolarmente propenso su Marini, e quindi considerando questo gesto come un dato, come dire, non positivo. Poi ci sono quelli che hanno votato Rodotà, lo stesso. C'è chi ha votato Rodotà, però non saprei dirle, perché non è proprio uscito, non c'è stato una persona. Ci deve essere. Che ha detto, guardate, io ho votato questo, non voto Prodi. Nessuno. Civati ha detto che ha votato scheda bianca. Ah no, Prodi, sì. No, parlavo di Napolitano, tutti noi abbiamo votato Prodi. Il problema è che questi 101, questa carica appunto di dinamite dei 101, non si sa chi l'abbia innescata, per chi innescata, perché ci sono stati solo voti positivi quando ci siamo contati. Va bene. Anche un'astensione. Grazie, senatrice Puppato, grazie. Saluti, grazie, a presto, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Berlusconi, Canale 5, sentiamo. Intanto un governo forte, solido, a cui partecipano diverse forze politiche, vista la situazione del Parlamento, può mettere in campo queste decisioni. Durissimo il giudizio di Berlusconi sull'atteggiamento. Eccoci qui, 800 24 00 24, ascoltatori, che ho bisogno di tirarmi su un attimo. Vincenzo da Milano, buonasera Vincenzo. Buonasera. Dica. Io desideravo fare un discorso semplice, apolitico. Purtroppo, ahimè, non concordo col povero Mastrangeli, nel senso che quando ci si unisce a un partito, a un movimento, a un club di scacchi, ci sono regole e anche indicazioni che vengono date sul momento in base alla situazione, che o vengono accettate, o si accetta nel suo insieme, o si accetta quanto di buono al movimento, ma non... si sopporta ciò che non ci piace, perché riteniamo che la prima parte sia migliore. Vabbè, allora? Oppure non ci si iscrive. Voglio dire, non trovo corretto lamentarsi perché lui ha compiuto un'azione che va contro le indicazioni di quelli che erano il suo partito. Attenzione, io non sto dicendo che all'interno di un partito ci debbano essere Vincenzo, curattini. Facciamo cerchiamo di capirci bene. Allora, lei di chi sta parlando? Di quelli che hanno silurato Prodi? Di chi sta parlando? No, io prendo... colgo l'occasione del fatto che l'intervento prima di me parla di che ha silurato Prodi allora? Come l'esempio di un partito che non ha saputo mostrare assolutamente un fronte unito. Cioè, ma no, ma che cosa strana sta dicendo Vincenzo a 3 giorni di distanza? Il Partito Democratico non ha saputo mostrare un fronte unito, ma è una cosa molto originale, molto strana, molto nuova soprattutto. Eppure, poco fa abbiamo sentito Berlusconi dire... Sì. Che i grillini sono burattini comandati da un pazzo, ma sì. Io trovo che la forza del centrodestra sia stata la sua compattezza con cui il centrodestra è stato compatto. Dunque la critica di Berlusconi quando riceve un'indicazione pubblicità, non ho capito niente, pubblicità, mi sono stufato Vincenzo, non ho capito niente, pubblicità. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Sempre dal processo a Mastrangeli, riusciresti a stare una settimana lontano dalla TV? Gli chiedono. Andrea dalla provincia di Varese, buonasera. Andrea, dica. Sì. Andrea, su, avanti. Andrea. Ma vada al diavolo, va. Alberto da Vicenza, su. Ma perché lo tratti così? Che cavolo, Alberto da Vicenza, dai. Perché? Siete voi? Sì, dica. Eccoli qua, i miei due clown preferiti. Allora. Come dice? I miei due clown preferiti. Ecco bene, il terzo bene. Che arriva, ecco il giocoliere. Poi? Prego. No, il giocoliere siete voi. Pochi Prego, giorni giocoliere. Fa, sì. Riascoltatevi in podcast quello che volete. Sì. Voi dicevate che chi fa parte di un movimento deve stare alle regole, poi lei Cruciani, altrimenti prende ed esce dal movimento. Assolutamente sì, ma sembra che non abbia violato le regole del movimento questo signor Mastrangeli, secondo me poi se l'ha violata andasse a quel paese pure lui. Ma allora, sembra qui abbiamo che non un problema di lealtà all'interno di un gruppo, che è quello che fa funzionare i gruppi. Ma quello è un altro discorso, io sono d'accordo con lei al 100%, se c'è un regolamento e tu lo violi devi andare a casa, non c'è dubbio. Hanno impedito di partecipare ai talk show, bene, è impedito di andare a fare l'intervista? No, perché c'è andato anche il capogruppo Grimi, è andato a porta, dunque di che si parla? Della partecipazione al talk show della D'Urso? Dalla D'Urso sì e da Vespa no? Oppure no, dalla parliamo D'Urso, di quello no, che fa funzionare Vespa, sì. Un gruppo, compreso il PD e il PDL. E che cosa? Cioè la lealtà dei singoli al gruppo. Allora? Cosa che non sta funzionando, perché? Perché il Partito Democratico è un partito di persone libere, sì. Che dissentono. Vabbè, questo siamo e d'accordo. Poi però si sentono vigliaccamente libere di dissentire quando fanno il voto segreto a quello che hanno deciso coram populo nella riunione precedente. Invece il signor Berlusconi, visto che i suoi parlamentari ma che c'entra Berlusconi adesso, scusi, sì, cosa c'entra? Cosa c'entra Berlusconi adesso? Cosa c'entra? La lealtà il signor Berlusconi se la compra. Vabbè, perché d'accordo. Chi esce dalla sua manina pagatrice fa la fine del signor Fini, sparisce dall'universo politico. Va bene, allora? E quindi questo partito, questo Parlamento, questa nazione non rientrerà in nessun parametro se qualcuno si metterà a comportarsi realmente, compresi voi, che potreste mantenere un parere per più di 2 giorni. Alberto, lei non ha capito nulla. Se nel regolamento dei 5 Stelle ci fosse stato scritto non si può andare a fare, non si può concedere alcuna intervista, ovviamente Mastrangeli andava cacciato il giorno dopo. Siccome questo non c'è scritto e c'è scritto semplicemente che non si può partecipare ai talk show, cosa per me già folle, ma comunque c'è un regolamento, se quelli non rispettano vanno a casa. Di che stiamo parlando? Della partecipazione della D'Urso invece che a porta? Di cosa? Traffico. La Zanzara. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco. Mañana yo soy estanco como una muchachita. E siamo qui 800 24 00 24. Mi fate ascoltare Rosy Bindi che dice no a Ricoletta capo del governo, no? E se noi dovessimo mettere il vice segretario del partito a fare il presidente del consiglio, io ho molta stima di Enrico Letta, non solo come vice segretario del partito, ma anche come uomo di governo, siamo stati insieme al governo, l'ho visto all'opera, so che sarebbe capacissimo di svolgere anche l'alto compito di presidente del consiglio. Non è questo il momento. Non è questo il momento. Bah. Grillo, forse solo Chavez più di Napolitano. Io sono andato a vedermi due o tre appunti, ma non c'è mai stato nella storia dei nostri presidenti un settennato doppio, 14 anni, ma neanche, 14 anni Chavez forse ha superato, ma non c'è scritto neanche nella Costituzione. Moglie di Roma, bottiglia, la riducona. Il gigante Giletti contro i manifestanti che lo insultano, comunque gli dicono non ti riparare dietro la polizia, un gigante Giletti con la tuta, col cappellino di fronte ai manifestanti in Parlamento, davanti al Parlamento. No, lei mi ha detto venduto, ha detto complimenti, però, allora voi avete iniziato a dire però, vaffanculo, io sono venuto qua a vedere, ragazzi, io sono venuto a vedere, io sono venuto, ma che visita, io vengo a vedere per capire cosa succede, è da pagliaccio e è da vigliacco battere le mani quando si sta dietro alla polizia, poi sai come cavolo ti pare, posso, sì. Dimmi dai, dimmi, no, t'ho detto, vuoi che vada là e da una folla, no, ma che sei venuto a fare, sono venuto a vedere, tu parli senza vedere quello che succede, oggi. Rosy Bindi a Porta dice: domani una maggioranza nella direzione del Partito Democratico ci sarà e si voterà su un mandato a come fare il governo. Chi non vota questo mandato non sarà del Partito Democratico. Ora però c'è anche un diritto al dissenso, no? Cioè se, non è che se uno vota. Però. Cioè, se non è che guarda uno... che sei un personaggio veramente incredibile, Cruciani. Perché? Cruciani, scusa, Giuseppe. Perché tanto svegliati che bisogna svegliarti. Sì. Perché ci hai rotto gli zebedei per sì. mesi dicendo che Grillo ha potere di vita o di morte certo. sui suoi. E poi ora rompi le palle a un partito che anziché essere virtuale in internet con la rete, che decide tutta la rete, questi si dividono, litigano, piangono, allora? Nelle sale, sudano, puzzano, votano e poi arriva Cruciani che dice beh, però, in fondo, come si fa a buttare fuori chi non è d'accordo con la no, legge? No, ma chi non è d'accordo con te stesso? Ma che c'entra? Lì c'è una questione diversa. Ah, questione un diversa. Grande partito che non ragiona tramite due guru, ma con delle regole, si esprime anche a maggioranza. Se ogni volta che uno si esprime a maggioranza gli altri se ne dovessero andare via è finita. No. Però la differenza è che nei partiti seri e organizzati questo può succedere. Siccome benissimo. Tu hai difeso, hai votato, ma, hai votato quelle persone che scorrazzavano liberamente per ma la no, città, assolutamente volavano no. per la città. Ma figurati. Sì. Tu sei quello. Dove eri? In piazza con loro dovevi andare a urlare. E perché? In perché? Piazza con loro, vergogna, Franceschini, vergogna. Ma questi non hanno mai mangiato in trattoria? Non vanno mai mangiato in trattoria questi qui? Vergogna, Franceschini, vergogna. In piazza dovevi andare con quelli lì ad assediare il Parlamento. E per quale motivo? Poi in piazza lì con loro dovevi andare, li hai votati. Hai votato questa roba, hai votato la rete. E allora? Hai votato. In no, Germania io lo fa. In Germania lo fa. Ma cosa? Cosa in fa? In Germania assediano il Parlamento in continuazione. Lo fa. Ma non è vero, ma non è vero. In Germania prendono a calci in culo a Merkel ogni giorno. È normale. Ma io stesso ho convocato una manifestazione a casa mia perché mia moglie non aveva tirato l'acqua del bagno. Ho convocato tutta la piazza hanno circondato casa mia. Volevano linciare mia moglie. Abbiamo fatto un appello sulla rete. Era incazzata nera perché c'erano 40.000 persone davanti a casa. Ma scusi, Grillo, lei ha convocato una manifestazione davanti a casa? Cioè, è tutto trasparente. Mi sono arrabbiato con mia moglie perché non ha tirato l'acqua. Ho ripreso tutto in diretta, c'era un puzzo pazzesco. Ho fatto l'appello in rete e sono venuti tutti. Ma in Germania lo fanno. Non mi secchi, non si asseccarmi. Intanto sembra che la Serracchiani vinca al photo finish in Friuli. È incredibile, visto il clima, ma evidentemente stava brava a fare la campagna elettorale, quello del 5 Stelle sicuramente no, eccetera, eccetera. Nino da Palermo, buonasera Nino. Buonasera. a tutte e due. Niente, io volevo semplicemente dire una cosa, una considerazione sulla sinistra. Purtroppo loro sono vittime della loro cultura rivoluzionaria, cioè nel senso più deteriore del termine, perché quando si urla in piazza e si sente gridare alcune parole d'ordine, come quelle che sono state gridate anche a Franceschini, che si mangiava una pizza dopo l'impresa, diciamo, parlamentare, indica il fatto che c'è una parte della sinistra che dentro il PD c'è e che SEL rappresenta, non resiste alla piazza, non resiste al sapore del sangue. Quindi a un certo punto meglio andare in piazza e cominciare a tagliare teste. Quindi cominciamo da chi? Da quelli che hanno vicino. Hanno cominciato con Franceschini, hanno continuato con tutti gli altri, con Fassina, passando anche dalla demonizzazione, che devo dire è una cosa che io, che sono di destra, perché io sono uno di Fratelli d'Italia, mi ha mortificato come italiano vedere mortificare così il segretario Bersani del più grande partito di sinistra, di centrosinistra italiano. Cioè, vederlo in quelle condizioni così è vergognoso. Ma siccome questa è la loro cultura, che oggi Grillo interpreta, sono vittima di questa cultura. Devo dire che anche se noi non abbiamo votato Napolitano, perché siamo contrari ai governi... Ma chi non ha votato Napolitano? Fratelli d'Italia. Ah, Fratelli d'Italia, sì. Che è una cosa incredibile. Avete votato capitano ultimo, non so che cosa. Vabbè, sì, il capitano ultimo è quello che ha arrestato Riina. Vabbè, allora... Per dare un segnale. Allora voglio dire questo. Segnale di che? Cioè, dare un segnale. Un segnale di diversità rispetto al governo che si preannuncia, cioè il PDL con il PD. Perché invece ci sono altre soluzioni. Invece ci sono altre soluzioni, no? Per sì, Fratelli certo, d'Italia. Ma tutto si può fare in politica, nessuno. Però... di vedere oggi il discorso, sentire il discorso di Napolitano, la solennità con cui è stato accolto, e vedere quelli e i grillini che nemmeno si alzavano, diciamo, nemmeno lo applaudivano. Vabbè, non è necessario applaudire, hanno preso tutti gli italiani. Ho capito, diciamo, ma non è vero, Nino. Io credo che ci sia anche diritto al dissenso. Ovviamente, se uno non è che deve applaudire per forza il discorso di Napolitano, può anche non essere d'accordo e non applaudire, anche perché gliela cantate un po' sulla piazza, sui partiti, eccetera. 5 Stelle. Un uomo di 88 ho capito, anni. Ma se uno dice non è il mio presidente, è un altro discorso. Ma se uno non applaude, non è che c'è per forza la necessità di applaudire. Grazie. Ma è con noi il grande Don Andrea Gallo, buonasera! Buonasera! Come va, Don Gallo? Tutto bene a Genova, tutto bene! Tutto bene a Genova, un po' di delusione per questo presidente? Come hai detto? Un po' di delusione per questo presidente napolitano? Molto, molto, molto! Molta delusione! Ma come, un partigiano? Mi piace ancora una volta, sì? La classe politica, i consociativismi, sì? Ancora una volta hanno trovato l'ultimo, spero che sia l'ultimo traballante scudo umano. Bellissime parole, sì. ma signori, chi mi ascolta, sì. Aumentano i milioni, milioni, milioni di poveracci, miserabili, il lavoro, allora? La scuola, tutto, sì. Non abbiamo bisogno di parole, questo è il punto centrale. Ma lei dice l'ultimo scudo umano per riparare chi? Come? No, si sente male. No, l'ultimo scudo umano per riparare chi, Don Gallo? Ancora una volta la classe politica ormai degenerata, ormai squalificata, sì. Assediata giustamente. Ah, è giusto, è stato giusto l'assedio davanti alla Camera? È stato giusto? La manifestazione, l'assedio davanti alla Camera, lei godeva, Non ho visto io, non le ho viste queste cose, io so solo che io no. Di questo degrado, che sì. Siamo in un degrado, arriva questo gran signore, io sempre non sono io il giustiziere, ma siamo in un degrado che indebolisce la democrazia, questi discorsi, questa, ancora una volta, ma siamo tutti responsabili, nessuno ne sente la colpa, anche il signor Napolitano dopo 7 anni, cioè del setterato. E quindi io non sono il giustiziere, però io vorrei, visto che ho pochi minuti, sì. Differente resta invece una valutazione politica, se oggi in Italia possiamo ancora sì. o non più dire di essere in una reale democrazia. Non siamo in democrazia secondo lei? No. No, al di là delle diverse opinabili dialoghi, sì. c'è il fatto che oggi molti non si accorge, io lo predico da anni e anni, sì. lo diciamo il signor Bottone a Milano alla messa al cimitero monumentale, sì. non si accorgono del processo comunque in atto di morte lenta della democrazia che potremmo definire di progressiva eutanasia di una repubblica nata dalla resistenza antifascista. Sì. Però scusi, questo doveva dire, siamo a terra, e allora c'era bisogno di un cambiamento, di un rinnovamento. Se un Parlamento non sa esprimere un presidente, sì, scusi un attimo, ma è stato con tutti gli onori al settenato di Giorgio Napolitano. Sì, certo, scusi un attimo, ma Berlusconi è il vero vincitore? Certo, cioè ha visto come rideva, ha visto come rideva, no? Un vincitore provvisorio. Però ha visto come rideva, come se la rideva in questi giorni. Certo. A un certo momento ti basta citare l'articolo 3 della Costituzione. Cioè? Io ho visto nascere la democrazia, avevo 17 anni. Sì. La Repubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli che impediscono la crescita delle cittadine e dei cittadini. Al contrario, le difficoltà per milioni di italiani aumentano paurosamente. Vabbè, quello d'accordo, ma Berlusconi che c'entra? Cioè lei dice se la... E c'entra che ha governato 11 anni, gli ultimi 11 anni, tutta la classe politica, e le spese pazze, e le corruzioni, basta! È un bellissimo discorso, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ah, Napolitano, e viene diciamo fuori il discorso, attenti, ho visto che dai ridai cosa viene fuori. Che viene fuori? Sì, la parola responsabilità, responsabilità, responsabilità di chi? Cioè, di tutto il popolo, lei dice, ormai oltre 10-12 milioni disoccupati, lei dice, il 40% dei giovani disoccupati. Scusi Don Gallo, ma lavoro. Secondo lei ci sarà l'inciucio? E certo che è inciucio, dico a tutti, ma diciamolo, chiaro, diciamolo, tu... parliamoci chiaro, dai, se no, parliamoci chiaro, ci sarà l'inciucio, tanti no? Tanti discorsi di singolo, bellissimo, non bellissimo. Stiamo andando verso l'inciucio. Scusi un attimo, ma Berlusconi dopo sembrava morto, adesso torna al governo con i suoi ministri, ma si rende conto o no? Hai visto te? A un certo momento dobbiamo chiederlo, non so, a chi lo chiediamo? Chi lo chiediamo? Al vuoto a sinistra. Al vuoto a sinistra. Ma lei chi avrebbe votato? Rodotà? Dov'è da anni e anni una vera opposizione anti-Berlusconi? Non c'è. È un'alleanza tra Berlusconi e PD. Io non so come sarà caverà adesso il PD. Con tutte le... Ma ti rendi conto? È inaccettabile. Io conosco molti parlamentari anche europei del PD. Sì. È inaccettabile. Che dopo, basterebbe questo per dire basta Paolo, basta. Dopo avere approvato all'unanimità il nome di Prodi, 101 deputati, due ore che dopo farebbe lei a pronti coi veleni. Che farebbe lei a questi qua, a questi 101? No, diciamo, che, fare, no, che farebbe certo a questi qua? Io certo voglio che i peccatori vivano, ma che si convertino. È una crisi di sistema. Allora, ma la ghigliottina certo, non metterebbe la ghigliottina? Di impegno, di cominciare da capo, costruire rapporti, relazioni, indignarsi poi attualizzando veramente una preparazione. Ma signori miei, c'è da riformare un'intera classe politica. Quindi è una strada in salita, difficile, certo. Invenga la responsabilità. Io voglio, con il mio impegno civile, ogni giorno impegnarmi, però ci vuole trasparenza, ci vuole chiarezza, ci vuole partecipazione dal basso, partecipazione democratica. È lunga, però quanti in Italia ancora sono ancora pronti a fare questa lotta? Don Gallo, molti gruppi, circoli. Un attimo tutti. Solo, Don Gallo, c'ho la pubblicità, torno tra un attimo, resti lì. E siamo qui per caso, ma giusto per caso, Parenzo, lo streaming online del processo al signore dei 5 Stelle, a Mastrangeli, no? Per aver partecipato ai talk show, si è interrotto sul più bello, cioè quando la cosa diventava interessante. Vabbè. Sì, hanno tolto la linea. Sarà un caso, ma abbiamo con noi da Genova il mitico Don Andrea Gallo. Ancora buonasera, Don Andrea Gallo. Buonasera. Allora, caro Don Gallo, vogliamo recitarlo un bel De Profundis, ma sul serio per il Partito Democratico. Come lo reciterebbe lei un bel De Profundis? Facciamolo insieme, su. De Profundis. Com'è? A un certo momento... Altro che De Profundis, qui direi che invece estrema unzione. Io sono ancora sempre alla mattina conoscendo il patrimonio che si porta dietro di lotte di conquiste di lavoratori. Io penso, ho sentito ancora Cofferati, ho sentito altri, che ci sarà veramente chi tenerà, che riuscirà a tenere veramente il vero nocciolo del Partito Democratico. Anzi, con un'attenzione particolare di quello che potrebbe essere un'esperienza di una coalizione, sì, di un allargamento che passa da, per me, dalla matrice cattolica alle varie matrici. Direi, mi sembra di vivere la Costituzione, sì, dove tutte le matrici erano presenti. Però, Don Gallo, quindi mi scusi, io mi auguro, sì, che ci sia qualcuno che veramente prenda in mano, anzi direi aiutiamo tutti i partiti, ma in modo particolare chi le piacerebbe di più? Chi le piacerebbe il segretario del PD? Come? Ma se chi le piacerebbe di più? E poi anzitutto, prima, Don Gallo, ma ci sarà la scissione, un nuovo partito di sinistra con Ben? Ma la scissione c'è già stata, è inaccettabile, indescrivibile. A un certo momento scandaloso che 101 elettori hanno votato contro Prodi quando avevano acclamato, sì, la candidatura di Prodi. Quindi la scissione c'è in atto, ma non solo una, penso varie correnti. Ma lei cosa farebbe a questi 101? Se fosse davanti a uno di questi, cosa farebbe davanti a questi? Direi che la democrazia è servizio, direi che a un certo momento non riusciamo in questa maniera a sradicare l'assenza di futuro alle nuove, nuovissime generazioni, quindi una responsabilità enorme. Ma come sono? Traditori, criminali? Come li definisce lei? Traditori, poi alcuni hanno detto terroristi da cacciare, come li chiama? Io li chiamerei veramente proprio veramente cattivi maestri, proprio cattivi maestri, cattivi maestri. Cose è quella definizione che ogni tanto viene data a destra e a sinistra. Penso che questa volta sono proprio cattivi e pensi una scuola che ha un cattivo maestro. Scusi, Napolitano è il suo presidente, Don Gallo? È il presidente legittimamente eletto, quindi dal punto di vista io che rispetto le istituzioni, sì, però ho anche il diritto, proprio del cittadino italiano, di esprimere il mio dissenso, di esprimere la mia indignazione, di esprimere ancora una volta, certo, un appello a tutte le forze di buona volontà per formare una classe politica. Bisogna partire, pensa, dopo il 1800 le società di mutuo soccorso. Vabbè. La solidarietà per non ho capito perché lei ha detto che va in politica per servire. Vabbè, perché qual è il dubbio qual è il dubbio su Napolitano? Ma nessun dubbio, nel senso che ancora una volta hanno preso veramente qualcuno che dica: guardate come siamo bravi, ripartiamo, questo è un personaggio, e lo è, però non è quella la strada, insieme. Cioè lui è l'uomo dell'inciucio, diciamo. È l'uomo che a un certo momento adesso cominceranno le cosiddette larghe intese, però non ci tra l'altro non è la buona volontà di tutti gli elettori italiani, che volevano un cambiamento a 360 gradi. Vabbè, però Don Gallo, che vuole fare? È l'uomo che ha rimesso Berlusconi al governo, che rimetterà Berlusconi al governo, no? Non lo so, non credo che Cavaliere si pensi di andare al governo. No, lui, alcuni uomini suoi. Però naturalmente i Berlusconi vari ci saranno, diciamo tutto. Certo. Non so, la mia domanda, io non voglio essere catastrofico, è una realtà. Quanto può durare? Che ne so, quanto può durare? Facciamoci un sigaro intanto, va, Don Gallo, che dici? Un bel sigaro, un bel toscano, no? Io adesso vi auguro buon lavoro, buonanotte a tutti, e a un certo ma momento quanti toscani, io davvero, quanti... da vecchio partigiano il 25, sì, mi voglio cantare bello ciao e fischia il vento. Cantiamola insieme adesso, in anticipo. Fischia il vento. Com'è? Sono svegliato. Com'è che fa? Bella ciao, la mattina mi sono svegliato e ho trovato sull'invaso. Senta. Sono alzato. Cantiamo insieme. Io bella ciao, mi sono svegliato. Io trovo. Chi sono i fascisti oggi? Già no. I fascisti, ricordi che il fascismo è un fascismo storico, il fascismo è colui che si crede una razza superiore, l'arroganza, ad un certo momento veramente quell'arroganza di essere a un certo momento mandato non so da quale divinità per stabilire l'ordine, sì, per stabilire la patria. Ricordati che quando sì, si parla di patriottismo è mm, l'ultima rifugio dei furfanti. Davvero patriota è colui che serve al suo paese e fa difendere, cioè, e deve nei bisogni, nei diritti di tutti, di tutte le cittadine. Questo è, bella, questo è il vero, ciao, patriota. Ciao, quindi ciao, il fascismo è proprio un virus. Senta, è un senta, virus che continua. E Giorgio Bocca, il mio amico, lo diceva nel 2003. Sì. Il virus del fascismo è in libera uscita. Questo è il punto, senta, fondamentale. Senta, senta, senta qua. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella, oh, bella ciao, ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Un abbraccio, presto, Don Agnello. Ciao, un abbraccio, sulla testa. Ciao. Sulla testa tutti. Fumiamoci i sigari, viva il toscano. Roberto da Piacenza, buonasera. Pare che Mastrangeli sia stato espulso con 62 sì, 25 no e 3 astenuti. Hanno cacciato Mastrangeli. Roba da matti. Roberto da Piacenza, dica. Buonasera. Che ridi, Parezzo? Adesso. No, ero io che ridevo, non Parezzo, poverino. Ho sentito Galdo che diceva cattivi maestri di alcuni esponenti del PD. Adesso sì, non vorrei che Franceschini si arrabbiasse, perché in questi giorni l'hanno insultato fin troppo, poverino. Ma scusate un attimo, è vero che ha denunciato il fatto di essere stato aggredito perché gli hanno urlato che ti vada di traverso? No, non credo, vergogna. Denunciato l'aggressione, non credo, cioè, no, si è incazzato a livello mediatico, ma voglio dire, se uno fa il politico, questo è il meno che si possa aspettare, anzi in sì, ho capito ragazzi, storico, però bisogna intendersi, non è che uno quando si siede in pizzeria debba essere, siccome è un politico, ci sono frotte di persone che ti passano davanti e ti dice oh ali mortacci tua, e un altro ti dice che te vada di traverso, cioè non è il confronto politico questo qua. Questa, da una parte ci sono quattro coglioni e dall'altra un politico che sta mangiando la pizza al ristorante, che può essere criticabile quanto volete per mille motivi, però non è che se ci sono delle persone che sciamano per Roma, vedono uno e dicono oh a testa de cazzo, a pezzo de merda, e va tutto bene. Roba quelli tua, quelli roba sono tua. Ma non è roba mia questa qua, guarda, ti assicuro. Roba tua, questi... avete creato questo clima. Vabbè, hai contribuito col voto a creare questo ma non clima è vero, paese. Non è vero, non caccia è vero. Caccia all'untore. Ma non sta è vero. Avvenendo quello che scrisse Manzoni nella storia della ma colonna. Lascia perdere infame. Manzoni, mettimi la caccia, che c'è il traffico. All'untore. Ma che è successo per 10 minuti domenica sera, dai, su, una follia che io condanno fortemente, condanno traffico. La Zanzara. Allora, mi scrive Stefano Bellotti dei Modena City Ramblers che mi dice beh, potrete mettere la nostra versione di Bella Ciao. Questa avevamo a disposizione, però nell'immediato questo c'era di materiale. Ah, grandi Modena City Ramblers. Questo c'era di materiale. Era Gianni da Verona. Era il mio complesso che da giovane, quando andavo alle feste dell'Unità, ascoltavo sempre i Modena City Ramblers. Cisco, un ex di Modena City Ramblers. Dove andiamo? Gianni da Verona. Buonasera a tutti. Vada. Io volevo proporre un attimo solo, un attimo Gianni. Pronto? Pronto? Cercavo il senatore Mastrangeli. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, cercavamo il senatore Mastrangeli. Adesso è impegnato lui in assemblea. Penso che finirà alle 9 in punto. Alle 9, tra poco, tra una decina di minuti. Sì, no, ma siccome so che l'hanno espulso. Lo so, è una cosa un po' grande. Sì, è vero. L'hanno espulso, cioè la decisione è stata presa, poi bisogna vedere la sì, rete, sì, eccetera. Mi sembra che da domani inizia la votazione nella rete. Nella rete inizia. Ma lei chi è la sua portavoce? Sì. La sua portavoce. Bene, ma non è italiana lei, scusi, io lo chiedo. No, la sua assistente, la sua aiutante. Ah, la sua assistente, benissimo. C'è l'assistente parlamentare, dice lei. Ma al dire il vero sono la sua aiutante. Un attimo, un secondo. Sì, un attimo. Aiutante che vuol dire? Aiutante. Boh. Pronto, mi senti? No, ma l'aiutante in che senso? No. Allora, io L'assistente parlamentare? Io, no, adesso sto con Marino, sono la sua moglie. Ah, è sua moglie. Perciò, perciò, sì, sì, perciò le tengo il telefono, perché Marino, come se lei capisce, c'è un'assemblea, quindi lo può rispondere. Ah, beh, certo, non c'è. Scusate, ma lei è la moglie e nello stesso tempo anche l'assistente? Sì, ma non c'è niente di male. No, perché... non sono l'assistente, perché un assistente è quella che ha firmato un contratto, quindi io sento il Movimento 5 Stelle, questo non è nella ottica del Movimento, non sarò mai la sua assistente. Per carità. Però Marino e io abbiamo lavorato insieme da 4 anni. Brava, brava, quindi, bravissima. Quindi sì, facendo da baby, comizio, essendo che noi abbiamo dei bambini, io ho tutto il tempo per affiancarlo. Quindi in questo periodo, finché lui riesce a vedere quali saranno i suoi veri bisogni, provvederà ad avere un assistente, sì, sia informatico, un legislativo, un avvocato. Scusi, signora Mastrangeli, ma è una vergogna quello che sta accadendo. Noi l'abbiamo difeso a spada tratta questa cosa dell'espulsione di suo marito. E certo che è una vergogna, perché lo sai qual è il vero problema di questo? Che Marino ogni volta che va in TV, io se l'ho detto nel 2007, però Marino è uno che la verità non la attaccia mai, e questo mi rende d'orgoglio, però io l'ho detto, guarda, una volta che tu vai in TV dici i sovrani sono scritti, sì, il sovrano del programma, questo dà fastidio a Peppe Grillo e a questo 162 che si sono montati la testa. Certo, ma Grillo, che giudizio dà di Grillo, di questi qua che l'hanno espulso? Pessimo, lei? No, non lo so, direttamente Marino non ha ricevuto nessuna chiamata, una telefonata di Grillo, no? Quindi sì, questo solo lo saprà. Ma cos'è che dà fastidio? Cos'è che dà fastidio? Cioè, chi è che si è comportato peggio? Crimi, la Lombardi, chi è che si è comportato peggio? Crimi, perché è indirizzato da Grillo, questa è una mia opinione. A Grillo dà fastidio che Marino sempre, ogni volta che andò in TV, dice che i sovrani sono gli iscritti, loro solo sono di schiacciabottoni. Quindi di conseguenza questo dà fastidio, perché ormai Grillo sta facendo un passo indietro, votazioni online non si fanno, questo sì, programma Benedetto che hanno detto che se lo chiedo, se lo hanno promesso da 6 mesi, non arriva. Certo, scusi un attimo, signora Mastrangeli, io la cosa che voglio sapere, ma alla fine che fa suo marito? Va al gruppo misto, resta senatore comunque, no? Comunque resta senatore? Non è che si dimette? Non lo so, veramente, non lo so, perché ci sta tanta desillusione qua, a dire il vero, non lo so. Come l'ho detto, lui è stato rimesso per la rete per andare a votazione. Però vabbè, alla fine sarà espulso. Quali saranno i suoi sentimenti, poi se ti dirà lui, non lo so veramente. Ma lei gli ha consigliato? Questo, non pensavamo che noi arrivassimo a questo, certo, punto. Non c'è dubbio. Quindi mi trovo in un piedi, per dire così, no? Certo, ma lei è, per esempio, di andare dalla D'Urso, gliel'ha consigliata anche lei? Non c'è niente di male ad andare dalla D'Urso, no? No, io non le ho consigliato niente, Marino è un libero cittadino, poi non è un bambino, ha 41 anni, quindi... Ma lei quanti anni ha, signora, scusi? Io ho 32 anni. Ah, è giovane. Brava. Giovane, no, ma brava, molto, molto battagliera la vedo, molto battagliera. No, mi fa piacere, guardi, sono parente. Nel senso che... Noi, come dice Marino, abbiamo il Movimento 5 Stelle nel sangue, questa è un'ingiustizia. Poi è vero, Marino sempre ha rispettato il valore del... Come si dice, il valore che hanno i portavoce, però? Il portavoce porta la voce del gruppo. La voce del gruppo. Però sì, ogni parlamentare ha la sua opinione. Quindi Marino, sì, vota maggioranza, è vero, sì, che viene represso da Vito Crimi, però sì, lui ha diritto di dire la sua, sì, dire che c'è stato votare in senso. In base al gruppo, però anche vorrebbe anche dire la sua, non lo so come dire. No, ma ho capito, ma lui ha tutto il diritto di andare alle trasmissioni televisive, o sbaglio? In regola è tutto a posto, nel senso che, sì, come le dico, non mi viene in mente, questo regolamento non vieta, dice. Non vieta, sì, se certo. Consiglia di, no, a... Consiglia? Sì, sì, la sento signora. La sento, signora, io voglio capire chi è stato il più cattivo con suo marito, Crimi, la Lombardi, chi è stato il più cattivo? Vabbè, chiusa la linea. Gianni da Verona. Sì, buonasera. Sì. Volevo proporre un nome nuovo per quanto riguarda il governo che si farà. Io proponevo Andreotti. Lei proponeva Andreotti per il governo, sì, eh? Sì. Vabbè, un giovane, sì, certo. Visto i nomi che girano, Amato, Napolitano, Prodi... Prodi, certo. Io invece penso che Berlusconi potrebbe essere incriminato per, per crimini contro l'umanità, per strage, perché ha fatto fuori tutti i leader del PD, forse anche dalla Boccassini. Marco da Verona, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Dica. Io direi, gli argomenti sono tanti. Il primo riguardo al Movimento 5 Stelle, che da una parte appoggio la loro coerenza per cambiare, penso che ci siano toni e anche modi per porsi rispetto agli altri con una certa educazione. Io non voglio dire che siano fascisti o cose del genere. Vabbè, però, allora su, ecco, andiamo al sodo. Però nonostante questo, secondo me dovrebbero essere inseriti nel nuovo governo anche loro per quanto riguarda magari un aspetto di riforme, o comunque non li escluderei del governo di larghe intese solo perché. Ma che dice? Ma come si fa a pensare, come hanno fatto oggi alcuni esponenti del Partito Democratico, la Puppato da noi, Orfini, eccetera, come si fa a sostenere che i 5 Stelle dovrebbero partecipare al governo di larghe intese? Ma dico, ma siete matti o no? Cioè, è finita quella roba lì, è finita. Con Napolitano rieletto è finito tutto, il governo è già pronto, è chiaro che ci sarà un accordo tra PD e PDL. Devono solamente, il Partito Democratico dovrà passare qualche giorno, così poi voteranno domani a maggioranza. Vedremo ovviamente, ma ci sarà un governo PD, PDL, Scelta Civica. Domani 18:30. Devo dire che la commozione, il senso del dovere, forse anche un poco i peperoni di pranzo, mi hanno veramente portato a un attimo di grande senso del paese e senso dello Stato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Abbraccio schifo, riportacci! Radio 24. La passione si sente.